Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il giro turistico finisce e noi ci facciamo cullare dal dondolio delle onde ancorate al largo. Che sole, che mare, che poesia. Anche noi bambini stiamo buoni buoni. All'improvviso una voce comincia a cantare in sordina. Canto che poi per spontaneità sale di tono, sgorga in tutta la sua armonia, va su in tutta la bellezza della voce di mamma. Buongiorno a tutti, io sono Gino Vassallo, sono in età, anni 75, vivo a Catania o più precisamente ad Aci Castello, a meno paesino sul mare che è un sogno. In questo programma che si chiama Voi siete qui, che racconta ogni giorno una storia diversa, ogni giorno la storia di una persona che ha voglia di raccontarsi, che ha voglia di inviarci un piccolo episodio della propria vita che racconti qualcosa di lui, e lo fa, e se avete voglia di farlo ancora, voi siete qui, @radio24.it, capitano delle storie molto diverse, chiaramente, capitano storie di vita vissuta, quello è, diciamo, è la prima caratteristica che chiediamo, cose che siano realmente accadute. Capitano storie di lavoro, capitano storie d'amore, ovviamente, d'amicizia, a volte di sofferenza, e capitano ogni tanto delle storie come queste, che sono leggere come un canto, che sono storie che in sé sembrano rappresentare pochissimo, e invece forse non è così, soprattutto non è così per Gino, se ha deciso di raccontarcela. Voi siete qui, @radio24.it, oppure 349-238-6666, se siete in auto, se state andando da qualche parte, se state tornando da qualche parte e avete voglia di raccontare se vi è mai successa una cosa come questa. Provate a ripensarci, provate ad andare a tirarlo fuori dalla memoria, perché magari no, ma se è successa sicuramente in un angolo nel sottoscala della vostra mente è rimasta un episodio in cui per caso, gratuitamente, avete sentito un canto e ve lo siete goduto, magari camminavate per strada e c'era qualcuno che cantava da una finestra, oppure siete riusciti a passare vicino a uno stadio dove avete percepito la musica di un concerto, il tutto gratuitamente, ma il tutto è stato così leggero da regalarvi un attimo di leggerezza e magari di armonia con le cose. 349-238-6666 sul profilo Facebook del programma ha già scritto Filippo, ad esempio, che dice: una notte in un paese della Valle d'Aosta che non ricordo più, usciti da una trattoria, io e la mia fidanzata ci trovammo in una piccola piazza dove un coro degli alpini cantava la canzone del Piave. Fu magico e commovente. 349-238-6666. Facciamo un salto indietro, torniamo a 60 anni fa sulla Riviera dei Ciclopi. Si dice che l'anziano viva di ricordi, ma se così fosse il giovane di cosa vivrebbe? Di amnesie. Comunque, accertato che sono anziano, certificato da tutti i documenti anagrafici, sono autorizzato a ricordarmi qualche episodio specifico della mia vita, che probabilmente ricorderebbe anche un giovanotto di primo pelo, per la sua suavità, se avesse vissuto nell'epoca in cui mi riferisco. Da un po' di tempo sono pensionato, essendo stato impiegato per una quarantina d'anni al comune di Catania. Fino a qualche mese fa alternavo mare e altro, un po' di lettura, un po' di scrivere, faccio un po' di attività fisica. Niente, ora il mare è finito e sto pensando di tornare a Santo Domingo a trovare altro mare. Sono appassionato di mare, mi piace fare sci acquatico, windsurf e tutte queste belle cose. Siamo in Sicilia, alla Riviera dei Ciclopi, e chi non la conosce ha perduto qualcosa della vita. È un bel giorno, perché il giorno era veramente bello, pieno di sole, di aria che all'epoca era ancora pura. Andiamo al mare, perché si sa, in Sicilia c'è il mare, bello, azzurro e verde, sfumato o profondo, e cangiante per motivi suoi. In quel giorno, una famigliola, cioè la mia, composta da padre, madre, un figlio e una figlia, va a mare a farsi una vacchiata, cioè una gita in barca. Un meraviglioso paesino marinaro, ora zeppo di ristoranti e simili, con un paio di casette, stradine e un piccolo porto naturale, pieno di barche di pescatori. Papà contratta con uno di questi che, per una cifra modesta, si mette ai remi. Niente motori, all'epoca. E ci porta in quella famosa grotta, e poi in quella spiaggetta nascosta, e ancora allo scoglio di Tarzan, meta di intrepidi tuffatori, e così via.

conosciuto persone di Santo Domingo, domenicani, e quindi hai degli amici, una sorta di piccola comunità là a Santo Domingo. Sì, però devo dire che ho quasi esclusivamente amiche, perché gli amici là, non lo so, non quadrano, pensano a ubriacarsi parecchio, hanno un modo di vivere che non è consono al tuo, insomma, mia mentalità in particolare. Io fra l'altro non bevo, però le donne invece sono più, diciamo, più accoglienti, più, oltre che più accoglienti, più vogliose di migliorarsi, e quindi diventano più umili, hanno voglia di migliorarsi, mentre l'uomo è presuntuoso. Vabbè. Io sono il maschio, è qua che mi tocca. Ho capito, ne facciamo una questione. In Italia c'era 40 anni fa. Certo, ne facciamo una questione di genere. Gino, io purtroppo ti devo salutare perché ho poco tempo. Mi dici però qual è un tuo buon proposito? Non lo facciamo mai, è una cosa che non chiedo mai, ma con te la voglio fare. Un tuo buon proposito per questo 2013? Il mio buon proposito per questo 2013? Sono egoista, conservarmi in salute, perché ho 75 anni e grazie a Dio sto bene. Sono molto egoista in questo senso. No, ma mi sembra la cosa migliore, no? Insomma, sperare di avere ancora un po' in salute del tempo buono, soprattutto per intellettuale. Sé. Gino, ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, la storia e il piccolo insegnamento. Fai un buon 2013 e buon Santo Domingo. Grazie a tutti voi. Ciao Gino, alla prossima. 349-238-6666. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Ha una splendida faccia Gino nella foto che ci ha mandato e che trovate anche oggi sul sito di Radio 24, alla nostra pagina. Ha una faccia non compiaciuta, ha una faccia di una persona che se la sta godendo. È abbronzato, ha su degli occhiali con una montatura molto sottile, ha i capelli bianchi, ha dei baffetti. Mio nonno aveva i baffi così. I baffi che sono bassi, cioè sono lunghi lungo le labbra, ma c'è un sacco di spazio rasato tra il naso e i baffi, sottili, dei baffi sottili sopra il labbro superiore. Ha il viso appoggiato a una mano e secondo me è a Santo Domingo. Canto. Sostantivo maschile. Esecuzione vocale di una melodia o di un ritmo. L'arte del cantare. Etimo, latino cantum. Silvio mi scrive: due settimane fa ho accompagnato mia sorella alla festa di Natale dell'asilo per sentire mia nipote cantare. Aia. Sono rimasto nell'atrio, ma mi sono dovuto comunque sorbire gratuitamente, cioè da dietro l'angolo, il concertino di Natale. Il bis è stato il Pulcino Pio. E questa è una sorta di virus, questo del Pulcino Pio, che sinceramente se si riuscisse a debellare non sarebbe così male. 349-238-6666. Grazie alla storia di Gino, oddio, Gioacchino o Gino, che da piccolo ha sentito sua mamma cantare e tutte le persone che erano intorno sulle barche. Ci immaginiamo questa cosa, no? La riviera dei ciclopi, il caldo, il mare piatto e le barche dei pescatori intorno, e questa voce che sale, e addirittura un pescatore che, chiedendo il permesso al padre, questo è un particolare fondamentale, regala un polpo a sua madre per ripagarla di quella cantata e di quella meraviglia gratuita che è stato ad ascoltare. Noi però avevamo voglia di sentire in questa puntata qui, visto che si parla appunto di gratuità del canto, di sentire una persona che lo fa di mestiere invece, che ci vive facendo quello e che ha vissuto una vita intera cantando, tra l'altro facendo un mestiere che è estremamente faticoso fisicamente, proprio perché il canto è una cosa che fisicamente, soprattutto il canto professionale, quello lirico, concertistico, ti coinvolge molto, molto, molto, insomma, di pancia, di diaframma, eccetera, insomma, quelle cose tecniche che adesso non sono nemmeno in grado di spiegare. Visto che noi qui in redazione abbiamo un esperto che fa tutte le domeniche, giusto, Musica Maestro, un programma che sicuramente conoscerete, che appunto è Musica Maestra, abbiamo chiesto ad Armando Torno di consigliarci una persona con cui potessimo parlare e con cui potessimo chiacchierare di questa cosa, com'è la vita di una cantante. E lui ci ha consigliato una delle cantanti che è in attività da 32 anni e che ha fatto tutto, dalla lirica alla concertistica, che è Cecilia Gasdia. Pronto Cecilia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per essere qui innanzitutto. È piacere, grandissimo. Allora, qui è il 3 di gennaio oggi, le è capitato di fare concerti di recente? Si è tenuta libera? Io, guarda, ho cantato fino praticamente, era quasi sotto Natale, e poi ho detto basta perché volevo prendermi almeno ogni tanto un piccolo periodo, insomma, per stare in famiglia, perché sennò qua siamo sempre via. Siamo sempre in giro. Anche perché, infatti è questo più che altro che volevo chiederle, Cecilia, lei... che ha avuto una carriera molto piena, molto riempita anche dal canto, no? Questi 32 anni di vita. In realtà mi diceva fuori onda che ha un'altra attività adesso, che è un'attività agricola, giusto? No, sì, ma da 20 anni ho comprato un'azienda agricola tanti anni fa, e quando avevo i bambini piccoli, e adesso sono loro che hanno preso in mano tutto, ma comunque io partecipo sempre perché è una seconda attività ed è molto importante secondo me avere anche un'alternativa, specialmente per un cantante che, insomma, la voce non si sa mai quanto può durare. Io ho avuto abbastanza fortuna che sono arrivata a 32 anni ma di carriera, ma insomma è sempre un rischio. 32 anni sono tanti di carriera per un cantante lirico, no? Cioè la voce ha un termine, si stanca. La voce si usura come tutte, come i muscoli, come è un atleta, la voce è atletica, quindi devi fare i conti comunque con un uso regolato, stare attento, eccetera, ma comunque va incontro a una certa usura con l'età, e cioè, si capisce, ovvio. Io ho iniziato giovanissima, a 20 anni, adesso ne ho quasi 53, per cui insomma siamo abbastanza avanti. Quali sono stati i lavori che immagino siano tantissimi in 32 anni, però quelle 3-4 cose che una persona si ricorda quando ripensa a una carriera piena come la sua? Certo, ma io ho cantato 90 titoli di opera, quindi abbastanza. Wow. Sono tantissimi. Però ecco, le cose che posso, le momenti salienti sono, il mio debutto, che fu col concorso Callas della Rai nel 1980, e poi quando feci la prima opera in assoluto, la Luisa Miller, e poi quando sostituì la Cabaye alla Scala nell'82 nell'opera Anna Bolena, e poi sicuramente una cosa delle più belle, la Traviata, che fece a Firenze con Carlos Kleiber e la regia di Franco e Zeffirelli. E invece, che cosa spinge una ragazza di 20 anni, lei aveva quando ha vinto il concorso? 19-20. Che cosa spinge una ragazza di nemmeno 20 anni a cominciare una carriera come questa? Beh, veramente io non la volevo fare la cantante, ma io ho sempre studiato musica da quando ero piccola, quindi ero già diplomata in pianoforte quando ho cominciato a cantare. Ah, ok. Io ho studiato canto semplicemente perché volevo entrare nel coro dell'Arena di Verona per guadagnare un po' di soldi. E poi da lì, insomma, cosa nasce, mi hanno spinto a fare questo concorso, io l'ho vinto, e da lì poi piano, insomma... Insomma, quando ci si accorge... In giro per il mondo, ecco. Si dice, no, che quando ci si accorge di avere un talento si ha una sorta di obbligo a quel punto di mantenere, come se fosse un impegno. L'impegno è molto duro perché comunque la voce è uno strumento delicatissimo ed è soggetto anche a tanti cambiamenti dovuti non soltanto alla tecnica ma anche agli stati d'animo, eccetera eccetera. Io comunque sono stata una bambina che ha cantato da quando è nata, per cui prima cantavo la musica leggera e poi piano piano sono passata all'opera, perché studiando al conservatorio ovviamente queste cose le impari molto bene, e mi sono molto appassionata all'opera e piano, e così poi sono... ho intrapreso questa carriera di cantante lirica. Però ai miei tempi, cioè parliamo degli anni 80, ce n'erano tanti ragazzi che amavano questo genere, quindi era abbastanza gettonato, devo dire. A proposito di questo, Cecilia, l'opera oggi è percepita soprattutto dalle persone, dai giovani, ma mica tanto, anche dalle persone della mia età, quindi vicine ai 40, è percepita come una sorta di nicchia molto lontana dalla realtà, che appartiene a poche persone privilegiate che vanno per Milano, vanno a farsi la coda ore prima insieme a cinesi, coreani e giapponesi per vedersi le grandi opere. Qual è il motivo per cui, proprio un consiglio, no? Per cui una persona giovane dovrebbe avvicinarsi all'opera lirica o al canto in generale? Diciamo che intanto per i giovani c'è poca scelta, nel senso che i giovani di oggi, ma anche quelli della sua generazione probabilmente, dei quasi quarantenni, diciamo, non hanno la possibilità di scegliere perché non gli è stato dato modo di ascoltarla, l'opera da piccoli, eccetera. E perché purtroppo, per fortuna, non so cosa dire, ma ci sono tanti altri generi che vengono mandati anche sulle radio, sulle TV, molto di più, come il rock, il pop, che sono musiche meravigliose ovviamente, però lasciando poco spazio anche a tutto il resto. E quindi, oltre al fatto che in Italia c'è una cultura musicale anche scolastica che purtroppo non permette ai bambini probabilmente di avvicinarsi fin dalla tenera età, perché poi ogni musica è uguale, io dico sempre, basta ascoltarla un paio di volte, un'aria d'opera, entra in testa, 5 anni, certo, la imparano a memoria e gli, certo, piace. Poi noi alla nostra epoca eravamo in un mondo diverso, in un mondo dove non c'erano i cellulari, dove non c'era quasi la televisione, quindi si sentiva la radio, l'opera, insomma ancora si poteva gustare, quindi avevamo la possibilità di decidere se ci piaceva o no. E quindi adesso che il non problema c'è, è che nessuno ascolta più, perché non c'è, non si fa fatica. Quindi il consiglio è di prendere il biglietto che costa meno per un'opera lirica e provarci, e provare ad andarci. Ma no, direi di no, perché forse questo non è il modo migliore. Cioè, l'opera lirica bisognerebbe avere la possibilità di avere qualcuno che intanto te la racconta un pochino, magari non tutta intera in un colpo, perché andare a vedere un'opera alla prima botta, secondo me uno sviene, perché è troppo faticosa, perché certo, capiscono bene le parole, però magari sentire qualche pezzo qua e là e cominciare a orecchiarlo, secondo me la curiosità potrebbe essere talmente forte da dire, beh, sentiamo, visto che è così bello questo pezzo, sì, certo, sa come l'opera, andare. Insomma. Senta, invece, e poi purtroppo la devo però lasciare. Però bisogna iniziare, scusi, se la, a scuola. Bisognerebbe iniziare un po' da piccoli a, certo, sentirla, perché capisce, cioè, iniziare, certo, a 30 anni, chi è che inizia a sentire l'opera, a meno che non gli capiti per fortuna, per caso. Senta, invece un'ultima cosa, poi appunto devo salutarla, che musica ha nel suo iPod? Che musica ascolta? Io non ho l'iPod. Io sono l'iPod di me stessa. Quindi si canticchia delle cose quando voglia intrattenersi. Io ho tutta la musica di tutti i tipi, e poi la musica rock, mi piacciono i Muse, mi piace, ma poi sai, io ho due figli abbastanza giovani, 25 anni, per cui in casa mia girano musiche di tutti i tipi, dalla musica barocca alla musica metal, heavy metal, eccetera. L'ultimo concerto a cui hai assistito che non fosse un concerto lirico, classico? Io non vado mai né a concerti lirici, né classici, né di altro genere, per cui... Ok, perché insomma, giustamente si riempie... Perché sono sempre a farli. Sì, esatto, si è riempita la vita di quello. Io ringrazio moltissimo Cecilia Gazdia, le auguro un buon 2013 e tutto il meglio possibile per quello che le rimane, quello che ha ancora voglia di fare sul lavoro e nel canto. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori e mi saluti Armando Torno. Va bene, lo farò sicuramente, arrivederci. Grazie, grazie ancora a Cecilia Gazdia. Tomorrow you'll see it through. Clouded out disguises put you in the room. And though I wandered out alone, a thousand lights abounded on our home. And I remember every sound it made. The clouds out disguises and the grave. So yeah, I know I'm still afraid of letting go of choices I have made. All delighted people raise their hands. Storm. maestro di coro Gareth Malone ha una grande passione per l'opera. Quando esci da un teatro lirico ti senti un'altra persona. Poche forme d'arte hanno un effetto così profondo. Ma questi ragazzi la pensano diversamente. La cosa difficile è far accettare la parola opera. Gareth vuole organizzare un coro di adolescenti. Questo è un programma molto bello che arriva dall'Inghilterra, non so se dalla BBC o... Vabbè, comunque un programma inglese che va in onda su Rai 5, che è un canale digitale terrestre gratuito da dicembre, mi pare, e racconta la storia di questo tizio che è un ragazzo giovane, un maestro dell'opera, che usa la musica non per fare un talent show, ma in particolar modo la musica lirica, per migliorare la vita di questi ragazzi. Sembra noioso, ha detto così come ve l'ho raccontato, ma non lo è, molto interessante, lui è un bel tipo e soprattutto ha dei risultati sorprendenti. 349-238-6666 mi scrive Franca che lei ha visto Cecilia Gasdia nel 2002 interpretare il ruolo di Tosca al Teatro dell'Opera del Cairo e fu un grandissimo successo. Noi, essendo totalmente digiuni di opera lirica, non sapevamo alcuni dettagli, come ho scoperto, scusate, prima di salutare, ho scoperto che nel 2005 Cecilia Gasdia è stata insignita del premio Personalità Europea dell'Anno in Campidoglio a Roma e poi il Salomone d'Oro all'Università degli Studi di Firenze. Vabbè, perderemo tutta la giornata, la ringraziamo ancora Cecilia Gasdia e ringrazio anche tutti quelli che hanno reso possibile anche oggi questo programma, che sono Margherita Ina, Tiziano Bonini e Fabio Cantadori. La storia di oggi però era la storia di Gioacchino o di Gino e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Giacomo, vivo a Roma. La storia di domani è la mia e parla dei regali dell'Epifania di zia Silvana. Questa è la mia storia e io sono qui.